Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Trasporti sostenibili. È questo il tema affrontato nel corso dell'assemblea di Anita che si è svolta a Mantova nei giorni scorsi. L'Associazione Nazionale delle Imprese di Autotrasporto Merci e Logistica ha messo al centro dell'incontro proprio il tema della sostenibilità, parola chiave degli ultimi anni anche nel settore dei trasporti. La legge di stabilità 2016, ad esempio, già contiene tutta una serie di provvedimenti in questa direzione, a partire dal sostegno per il rinnovo del parco veicoli, fino agli sconti sulle accise per i mezzi meno inquinanti e alle misure per l'intermodalità. Bisognerà però proseguire su questa via, disincentivando l'utilizzo di mezzi di vecchia generazione e favorendo il passaggio ai trasporti intermodali, senza demonizzare il trasporto su strada. Secondo un sondaggio diffuso da Anita, infatti, oltre il 90% dei soci avrebbe acquistato veicoli più efficienti e meno inquinanti e il 27% avrebbe aumentato il numero dei trasporti intermodali. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Diamo respiro al trasporto sostenibile. È stato questo il titolo dell'assemblea annuale di Anita, l'associazione di categoria dei trasporti aderente a Confindustria, che si è svolta sabato scorso a Mantova. Utilizzo di motorizzazioni ecologiche, carburanti alternativi, ma anche trasporti marittimi e ferroviari al centro delle attività delle imprese che si occupano di movimentazione delle merci. Tutte tematiche anche al centro della relazione del presidente di Anita, Thomas Baumgartner. Presidente Baumgartner, il ministro dei trasporti del Rio, intervenendo all'assemblea, ha sottolineato come ci sia bisogno di una diversificazione modale, e cioè al di sotto dei 300 km va benissimo la gomma e quindi il trasporto su strada, al di sopra dei 300 km dobbiamo rivolgerci ad altre modalità, come ad esempio la ferrovia. Qual è la posizione di Anita su questo tema? Beh, noi siamo ben d'accordo e siamo ben consci per far fronte all'aumento della mobilità anche in futuro, che ci vogliono tutte le modalità, non solo la gomma. Per questo ci rendiamo conto che sulle lunghe distanze sopra 300 km minimo, noi riteniamo anche sopra 500 km, la ferrovia con l'intermodalità può essere un'alternativa valida. Noi siamo pronti ad utilizzarla, è una modalità che per l'ambiente vale. È importante che ci siano le infrastrutture, le possibilità di utilizzare i treni. Uno dei temi centrali per quanto riguarda la sostenibilità ambientale è quello dei carburanti alternativi. E all'interno dei carburanti alternativi per il trasporto pesante si parla molto di gas liquefatto, il cosiddetto GNL. Pina Della Pepa, segretario nazionale di Anita, quali sono le prospettive in questo senso, soprattutto sul fronte della distribuzione di questo prodotto? Sì, infatti il futuro dell'utilizzo del GNL è proprio legato ad una rete infrastrutturale di stazioni di rifornimento. Si stanno organizzando soprattutto gli interporti, infatti a breve a Novara, da quello che ci risulta, sarà inaugurato un nuovo distributore. Questo è molto importante, appunto, come dicevo, per far sì che vi sia uno sviluppo maggiore di questi veicoli, che vengono anche incentivati dal Ministero, che mette a disposizione dei trasportatori appunto delle risorse per l'acquisto di veicoli alimentati a GNL. Un altro dei temi centrali all'interno dell'assemblea è stato quello della libera circolazione delle merci. Ne ha parlato ad esempio Davide Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo e componente della Commissione Trasporti dello stesso Parlamento. Noi in Italia però abbiamo una serie di problemi, a cominciare da quello potenziale che è rappresentato dal Brennero. La libera circolazione delle merci e delle persone è una del pilastro della Comunità Europea. La Comunità Europea si fonda su questo principio. E non solo è importante per la Comunità Europea, ma è importante per tutta l'economia dell'Europa, per lo sviluppo dell'economia, per essere competitivi anche a livello mondiale. Purtroppo a causa dei flussi migratori ultimamente si stanno alzando le barriere all'interno dell'Europa e c'è il rischio che vengano di nuovo messe le barriere tra uno Stato membro dell'Unione Europea e l'altro. Esempio appunto l'Austria che vorrebbe fare dei controlli sul Brennero, cosa che noi abbiamo fortemente contrastato perché si ritornerebbe a una situazione prima delle aperture delle frontiere dove sapevamo che a causa dei controlli dovuti alle dogane il costo per il trasporto europeo, per l'interscambio europeo è molto più alto e non vorremmo ritornare a queste situazioni. Presidente Baumgartner, oltre al mare c'è un'altra modalità partner del mondo dell'autotrasporto che è la ferrovia. La recente inaugurazione del tunnel del Gottardo apre nuovi scenari, soprattutto per quanto riguarda i traffici con il nord Europa. Tutto questo rappresenta un rischio o un'opportunità per l'Italia? Ma prima di tutto io penso che la Svizzera con la costruzione e adesso l'apertura della galleria del San Gottardo ha posto un nuovo modello di sviluppo del trasporto intermodale a livello europeo. Questa galleria collegherà l'Italia con il nord Europa con un sistema nuovo, efficiente di intermodalità, non solo per la galleria di base, ma soprattutto perché tramite questa galleria poi potranno circolare treni molto più lunghi, 750 metri contro 550 attuali, treni più pesanti, 2000 tonnellate contro 1300-1500 di adesso, e treni con sagome che permettono di caricare i semimorchi standard 4 metri altezza. Questo significa un aumento della produttività del circa 30% e con questo il sistema intermodale diventa molto più competitivo, molto più concorrenziale di quello che è oggi. Noi trasportatori della NITA siamo interessati ai sistemi intermodali se questo può essere una valenza economica. Certo, la galleria del San Gottardo avvicina anche la pianura padana ai porti nordici e c'è un effetto, una possibilità di aspirare polvere che praticamente le merci, piuttosto di essere imbarcate da Genova, Savona o Livorno da altre parti, prendono la via per porti nordici. Il sottosegretario ai trasporti Simona Vicari, in un messaggio all'Assemblea, tra le altre cose ha sottolineato il ruolo dell'albo degli autotrasportatori che con il nuovo portale inaugurato proprio qualche settimana fa si pone come uno strumento fondamentale a questo punto di regolazione del mercato. È sicuramente positivo. Noi come Anita abbiamo fortemente voluto l'albo assumesse anche questo ruolo di verifica della regolarità delle imprese. Con la legge di stabilità del 2014 si è fatto un primo passo, con la legge di stabilità del 2015 si è completato questo processo, almeno per quanto riguarda la regolarità contributiva. Abbiamo dei dati che sono stati forniti recentemente dall'albo che ci dicono che la strada intrapresa è la strada giusta. Per noi di Anita però questo processo non si deve fermare qui, deve proseguire e deve anche estendere la regolarità alla regolarità fiscale delle aziende, che è un altro fattore che può incidere sulla competitività e soprattutto sulla regolarità delle imprese in un mercato in cui sempre più appunto la concorrenza si deve giocare ad armi pari e chi opera sul filo della regolarità ovviamente crea un danno prima al settore stesso e poi anche all'economia in genere. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Vi ricordo, prima di lasciarci, che Container è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo, che è container@radio24.it. L'appuntamento con la nostra trasmissione ritorna sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli